La morte di Cristo, vita del cristiano. Questa settimana, tradizionalmente chiamata santa dal popolo cristiano, ci offre ancora una volta l'occasione di considerare, di rivivere, i momenti conclusivi della vita di Gesù. Tutti gli avvenimenti che le diverse espressioni della pietà richiamano in questi giorni alla memoria hanno come traguardo la risurrezione, che è il fondamento della nostra fede, come scrive San Paolo. Tuttavia, non dobbiamo dirigerci troppo in fretta verso questa meta. Non dimentichiamo una verità elementare, ma che tanto spesso ci sfugge. Noi non potremo partecipare alla risurrezione del Signore se non ci uniamo alla sua passione e alla sua morte. Per essere con Cristo nella sua gloria, bisogna che prima aderiamo al suo olocausto per sentirci una sola cosa con lui, morto sul Calvario. La generosa dedizione di Cristo si scontra con il peccato, realtà dura da accettare, eppure innegabile. Il mysterium iniquitatis, l'incomprensibile malvagità della creatura che per superbia si rivolta contro Dio. La storia è antica quanto l'umanità stessa. Ricordiamo la caduta dei nostri progenitori, poi la catena di depravazioni che scandisce l'itinerario degli uomini nella storia e infine le nostre ribellioni personali. Non è facile arrivare a cogliere tutta la perversità del peccato e comprendere ciò che ne dice la fede. Eppure, anche nelle cose umane, la gravità dell'offesa si misura dalla condizione dell'offeso, dal suo valore personale, dalla sua dignità sociale, dalle sue qualità. E l'uomo offende Dio, la creatura rinnega il creatore. Ma Dio è amore. L'abisso di malizia che il peccato comporta è stato colmato da una carità infinita. Dio non abbandona gli uomini. Secondo i disegni divini, per riparare alle nostre mancanze, per ristabilire l'unità spezzata, non bastavano i sacrifici dell'antica legge. Era necessario il sacrificio di un uomo che fosse anche Dio. Possiamo immaginare, per avvicinarci in qualche modo a questo insondabile mistero, che la Trinità, nella sua intima e ininterrotta relazione d'amore infinito, decida eternamente che il Figlio unigenito di Dio Padre assuma la condizione umana, caricandosi delle nostre miserie e dei nostri dolori, per finire inchiodato a un legno. Questo fuoco, l'ardente desiderio di compiere il decreto salvifico del Padre, informa tutta la vita di Cristo, fin dalla nascita a Betlemme. Nei 3 anni che passano con lui, i discepoli lo sentono ripetere instancabilmente che il suo cibo è fare la volontà di colui che lo invia. Finché nel pomeriggio del primo venerdì santo si concluse la sua immolazione. Chinato il capo, spirò. Così ci descrive Giovanni la morte di Cristo. Gesù, sotto il peso della croce, addossandosi tutte le colpe degli uomini, muore per la violenza e l'abiezione dei nostri peccati. Meditiamo su questo Signore coperto di ferite per amor nostro. Usando un'espressione che si avvicina alla realtà, anche se non arriva a dire tutto, potremmo ripetere con un autore antico: il corpo di Gesù è un grande quadro di dolori. La scena che ci presenta questo Cristo ridotto a uno straccio, un corpo martoriato e inerte deposto dalla croce e affidato a sua madre, è come il ritratto di una disfatta. Dove sono le folle che lo seguivano? Dov'è il regno di cui annunciava l'avvento? Ma non è una sconfitta, è una vittoria. Ora egli è più che mai vicino al momento della risurrezione, della manifestazione della gloria che ha conquistato con la sua obbedienza. Morte di Cristo e vocazione cristiana. Abbiamo appena rivissuto il dramma del Calvario, quella che io chiamerei la messa prima e originaria celebrata da Gesù stesso. Dio Padre consegna suo Figlio alla morte. Gesù, il Figlio unigenito, abbraccia lo strumento con cui lo debbono giustiziare. Il Padre accetta il suo sacrificio e come frutto della croce si effonde sull'umanità lo Spirito Santo. Nella tragedia della Passione culminano la nostra vita e tutta la storia umana. La Settimana Santa non può ridursi a una mera commemorazione. È la meditazione del mistero di Gesù Cristo che continua nelle nostre anime. Il cristiano è chiamato ad essere alter Christus, ipse Christus. Noi tutti, con il battesimo, siamo stati costituiti sacerdoti della nostra stessa esistenza per offrire vittime spirituali, ben accette a Dio per mezzo di Gesù Cristo, per compiere ciascuna delle nostre azioni in spirito di obbedienza alla volontà di Dio, perpetuando così la missione dell'uomo Dio. Questa realtà, per contrasto, ci fa pensare alle nostre miserie, ai nostri errori personali. Ma questa considerazione non ci deve scoraggiare, né indurre all'atteggiamento scettico di chi ha rinunciato ai grandi ideali. Il Signore ci vuole per sé, e così come siamo, vuole renderci partecipi della sua vita e ci chiede di lottare per essere santi. La santità. Quante volte pronunciamo questa parola come se fosse priva di senso? Molti la considerano addirittura come un traguardo irraggiungibile, un luogo comune della letteratura ascetica, non un fine concreto, una realtà viva. Non la pensavano così i primi cristiani, che usavano il nome di santo per chiamarsi fra loro, molto spesso e con la massima naturalezza. Vi salutano tutti i santi. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù. Ora, di fronte al Calvario, quando Gesù è morto e non si è ancora manifestata la gloria del suo trionfo, è il momento di esaminare i nostri desideri di vita cristiana, di santità. È il momento buono per riconoscere le nostre debolezze e reagire con un atto di fede, confidando nel potere di Dio e facendo il proposito di vivificare con l'amore le cose della nostra giornata. L'esperienza del peccato ci deve condurre al dolore, a una decisione più matura, più profonda, di fedeltà, di vera identificazione con Cristo, di perseveranza ad ogni costo nella missione sacerdotale che Egli ha affidato a tutti i Suoi discepoli, senza eccezione, e che ci stimola a essere sale e luce del mondo. Il meditare sulla morte di Cristo diventa allora un invito ad affrontare con assoluta sincerità i nostri impegni quotidiani, un invito a prendere sul serio la fede che professiamo. Per cui la Settimana Santa non può essere soltanto una parentesi sacra nel contesto di una vita guidata da interessi umani. È invece un'occasione per introdurci con maggiore profondità nel mistero dell'amore di Dio e poterlo poi mostrare agli uomini con la parola e con l'esempio. Ma il Signore detta delle condizioni. C'è una sua dichiarazione riferita da San Luca dalla quale non si può prescindere. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Sono parole dure. Certo, i termini odiare o detestare non rendono bene il pensiero originale di Gesù, ma in ogni caso il Signore usò un'espressione forte che non si può ridurre all'amare di meno con cui a volte è stata interpretata, cercando di addolcirla. La tassatività di questa frase è tremenda, non perché implichi un atteggiamento negativo o spietato. Il Gesù che la pronuncia è lo stesso che ordina di amare gli altri come la propria anima e che offre la propria vita per gli uomini, ma perché essa sta ad indicare semplicemente che davanti a Dio non c'è compromesso che valga. Le parole di Gesù si potrebbero tradurre con un amare di più, amare meglio, non amare con un amore egoista e di breve respiro. Dobbiamo amare con l'amore di Dio. Ecco il segreto, ribadito dall'ultima delle condizioni poste da Gesù ai suoi discepoli. Et animam suam, la vita, l'anima stessa. Ecco ciò che ci chiede il Signore. Se siamo fatui, se ci preoccupiamo solamente della nostra personale comodità, se facciamo di noi stessi il centro dell'esistenza degli altri e del mondo, non abbiamo il diritto di chiamarci cristiani, discepoli di Cristo. Ci vuole una donazione che si dimostri con la verità dei fatti, non soltanto a parole. L'amore di Dio ci invita a prendere con decisione la croce, sentendo anche su di noi il peso dell'umanità tutta, e realizzando nelle circostanze proprie della condizione e del lavoro di ciascuno i propositi chiari e amorosi della volontà del Padre. Infatti, nel passo che stiamo commentando, Gesù dice ancora: «Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo». Accettiamo senza timore la volontà di Dio. Decidiamoci senza esitazione a edificare la nostra vita secondo gli insegnamenti e le esigenze della fede. Andremo sicuramente incontro a difficoltà, sofferenze, dolori, ma se veramente possediamo la fede, non ci considereremo mai degli infelici. Anche tra le pene e le calunnie saremo felici, di una felicità che ci spingerà ad amare gli altri per renderli partecipi della nostra gioia soprannaturale. il cristiano di fronte alla storia. Essere cristiani non costituisce un titolo di mera soddisfazione personale, è un titolo, una sostanza di missione. Già prima ricordavamo che il Signore invita tutti i cristiani a essere il sale e la luce del mondo. Facendo eco al suo invito e citando alcuni testi del Vecchio Testamento, San Pietro inquadra con molta chiarezza questo compito. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. L'essere cristiani non è una circostanza accidentale, è una realtà divina che si innesta nel più profondo della nostra vita, dandoci una visione chiara e una volontà decisa per poter agire secondo il volere di Dio. Si impara così che il pellegrinaggio del cristiano nel mondo deve trasformarsi in un servizio continuo, un servizio con modalità che variano secondo le circostanze personali, ma che deve essere sempre improntato all'amore di Dio e del prossimo. Essere cristiani è agire senza pensare ai traguardi meschini del prestigio o dell'ambizione, o ad altre finalità che possono sembrare più nobili, come la filantropia e la compassione davanti alle disgrazie altrui. È passare attraverso tutto questo, mirando al termine ultimo e radicale dell'amore che Cristo ha rivelato morendo per noi. Si osservano a volte degli atteggiamenti che derivano dall'incapacità di penetrare in questo mistero di Gesù. Per esempio, la mentalità di chi vede nel cristianesimo soltanto un insieme di pratiche e atti di pietà, senza coglierne il nesso con le situazioni della vita ordinaria, con l'urgenza di far fronte alle necessità degli altri e di sforzarsi per eliminare le ingiustizie. Direi che chi ha questa mentalità non ha ancora compreso che cosa significa che il Figlio di Dio si sia incarnato, abbia preso corpo, anima e voce umana, abbia condiviso il nostro destino fino a sperimentare la suprema dilacerazione della morte. Magari senza volere, alcune persone considerano Cristo come estraneo all'ambiente degli uomini. Altri, invece, tendono a immaginare che per poter essere umani bisogna mettere in sordina alcuni aspetti centrali del dogma cristiano e agiscono come se la vita di preghiera, il colloquio continuo con Dio, costituissero un'evasione dalle proprie responsabilità e un abbandono del mondo. Dimenticano che fu proprio Gesù a rivelarci fino a quali estremi debbono essere spinti l'amore e il servizio. Soltanto se cerchiamo di capire il mistero dell'amore di Dio, il mistero dell'amore che arriva fino alla morte, saremo capaci di darci totalmente agli altri senza lasciarci sopraffare dalle difficoltà o dall'indifferenza. È la fede in Cristo morto e risorto, presente in tutti i momenti della vita, che illumina le nostre coscienze stimolandoci a partecipare con tutte le forze alle vicissitudini e ai problemi della storia umana. In questa storia, che iniziò con la creazione del mondo e terminerà alla fine dei secoli, il cristiano non è un apolide. È un cittadino della città degli uomini, che ha l'anima piena del desiderio di Dio e che già in questa tappa del tempo comincia a intravedere il suo amore, riconoscendo in esso il fine a cui sono chiamati tutti coloro che vivono sulla terra. Se la mia testimonianza personale può avere qualche interesse, posso dire che ho concepito il mio lavoro di sacerdote e di pastore di anime come un compito volto a porre ciascuno di fronte a tutte le esigenze della sua vita, aiutandolo a scoprire ciò che in concreto Dio gli chiede, senza porre alcun limite a quella santa indipendenza e a quella benedetta responsabilità personale che sono le caratteristiche proprie della coscienza cristiana. Questo spirito e questo modo di agire si basano sul rispetto per la trascendenza della verità rivelata e sull'amore per la libertà della creatura umana. Potrei aggiungere che si basano anche sulla certezza della indeterminazione della storia, aperta a molteplici possibilità che Dio non ha voluto precludere. Seguire Cristo non vuol dire rifugiarsi nel tempio, scrollando le spalle davanti allo sviluppo della società, alle conquiste o agli errori degli uomini e dei popoli. La fede cristiana, al contrario, ci porta a vedere il mondo come creazione del Signore, apprezzando tutto ciò che è giusto e bello, riconoscendo la dignità di ogni persona, fatta a immagine di Dio, ammirando il dono specialissimo della libertà, grazie al quale siamo padroni dei nostri atti e, con l'aiuto divino, possiamo costruire il nostro destino eterno. Impoverisce la fede chi la riduce a un'ideologia terrena, inalberando una bandiera politico-religiosa per condannare, in virtù di non si sa quale investitura divina, tutti quelli che non la pensano come lui su problemi che per la loro stessa natura ammettono le soluzioni più diverse. Il significato della morte di Cristo. Questa digressione ha il solo scopo di porre in evidenza una verità centrale, che la vita cristiana trova il proprio senso in Dio. Gli uomini non sono stati creati soltanto per edificare un mondo che sia il più giusto possibile. Oltre a questo, noi siamo sulla terra per entrare in comunione con Dio stesso. Gesù non ci ha promesso né la comodità temporale né la gloria terrena, ma la casa di Dio Padre che ci aspetta alla fine del nostro cammino. La liturgia del Venerdì Santo contiene un inno meraviglioso, il Crux Fidelis. Esso ci invita a cantare il glorioso combattimento del Signore, il trofeo della croce, lo splendido trionfo di Cristo, il Redentore dell'universo nell'essere immolato, vince. Dio, padrone di tutto il creato, non afferma la propria presenza con la forza delle armi o con il potere temporale dei suoi, ma con la grandezza infinita del suo amore. Il Signore non distrugge la libertà dell'uomo. Fu proprio Lui a liberarci. Perciò non vuole risposte forzate, vuole decisioni che scaturiscano dall'intimità del cuore. E chiede a noi cristiani di vivere in modo tale che chi ci avvicina, al di là delle nostre miserie personali, dei nostri errori e delle nostre deficienze, avverta l'eco del dramma d'amore del Calvario. Tutto ciò che abbiamo ci viene da Dio, perché Egli ha voluto fare di noi il sale che dà sapore, la luce che porta agli uomini la lieta notizia che Dio è un padre e ama senza misura. Il cristiano è sale e luce del mondo non perché vince e trionfa, ma in quanto dà testimonianza dell'amore di Dio. Ma non sarà sale se non serve per salare, non sarà luce se non offre con il suo esempio e con la sua dottrina una testimonianza di Gesù, se perde ciò che costituisce la ragion d'essere della sua vita. Conviene che approfondiamo ciò che la morte di Cristo ci rivela, senza arrestarci alle forme esteriori o alle frasi stereotipate. È necessario prendere parte alle scene che riviviamo in questi giorni. Il dolore di Gesù, le lacrime di sua madre, la fuga dei discepoli, la fortezza delle pie donne, l'audacia di Giuseppe e di Nicodemo che chiedono a Pilato il corpo del Signore. Avviciniamoci, insomma, a Gesù morto, alla croce che si staglia sulla cima del Golgota, ma con sincerità, sapendo trovare quel raccoglimento interiore che è segno di maturità cristiana. Gli avvenimenti divini e umani della Passione entreranno così nell'anima, come parole rivolteci da Dio stesso per svelare i segreti del nostro cuore e rivelarci quello che si aspetta dalle nostre vite. Molti anni fa vidi un quadro che mi restò profondamente impresso. Rappresentava la croce di Cristo con accanto tre angeli. Uno piangeva sconsolato, l'altro teneva un chiodo in mano, come per convincersi che era tutto vero. Il terzo era raccolto in preghiera. Un programma sempre attuale per ognuno di noi. Piangere, credere e pregare. Davanti alla croce ci vuole dolore dei nostri peccati, dei peccati dell'umanità che portarono Gesù alla morte. Fede per addentrarci in questo mistero che supera ogni intelletto e per meravigliarci di fronte all'amore di Dio. Preghiera perché la vita e la morte di Cristo siano il modello e lo stimolo della nostra vita e della nostra dedizione. Solo così potremo chiamarci vincitori, perché Cristo risorto vincerà in noi e la morte si trasformerà in vita.